Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. La sera precedente il suo 31esimo compleanno erano circa le 9, l'ora del silenzio nelle strade. Due uomini si presentarono nell'appartamento di K. E in finanziera, pallidi e grassi, con cilindri in apparenza inamovibili. Davanti alla porta dell'appartamento vi furono alcuni convenevoli in fatto di precedenza. Gli stessi convenevoli si ripeterono in misura maggiore davanti alla porta di K. Senza che la visita gli fosse stata preannunciata, K, a sua volta vestito di nero, sedeva su una seggiola vicino alla porta e si infilava adagio dei guanti nuovi stretti alle dita, nell'atteggiamento di chi attende ospiti. Si alzò subito e guardò incuriosito gli uomini. «È per me che vengono?» chiese. Gli uomini annuirono, ciascuno con il cilindro in mano indicava l'altro. K si confessò che si era aspettato una visita diversa. Andò alla finestra e guardò ancora una volta nella strada buia. Anche le finestre sul lato opposto della strada erano quasi tutte già buie. Molte avevano le tende abbassate. In una finestra illuminata dei bimbi giocavano tra loro dietro una grata e, ancora incapaci di muoversi dai loro posti, si tendevano a vicenda le manine. «Mi mandano vecchi attori di basso rango», si disse K, e si voltò per convincersene ancora. «Vogliono liberarsi di me a buon mercato». K si volse all'improvviso verso quelli e chiese: «In che teatro lavorano?» «Teatro?» chiese uno volgendosi per consiglio all'altro, con gli angoli della bocca che gli tremavano. L'altro si comportò come un muto, che lotti con l'organismo che si ribella. «Non sono preparati ad essere interrogati», si disse K, e andò a prendere il cappello. I due uomini volevano tenere a braccetto K già sulla scala, ma K disse: «Soltanto in strada, non sono malato». Ma appena fuori del portone, quelli lo presero a braccetto in modo tale come K non aveva mai camminato con nessuno. Tenevano le spalle strette dietro le sue. Non piegavano le braccia, ma si servivano di esse per avvinghiare le braccia di K in tutta la loro lunghezza. Sotto, afferrarono le mani di K con una presa regolamentare, esperta, irresistibile. K camminava teso rigidamente in mezzo a loro. I tre formavano adesso un'unità tale che se uno di loro fosse stato colpito, sarebbero stati colpiti tutti. Era un'unità, quale può formare soltanto, si può dire, una materia senza vita. Sotto i lampioni K cercò più volte, sebbene questo gli riuscisse difficile, dato il modo in cui era tenuto stretto, di vedere i suoi accompagnatori meglio di quanto era stato possibile nella penombra della sua camera. «Forse sono tenori», pensò alla vista del loro pesante doppiamento. La pulizia dei loro visi gli dette un senso di schifo. Sembrava ancora di vedere la mano che per pulire era passata sugli angoli degli occhi, aveva fregato il labbro superiore, aveva grattato nelle pieghe del mento. Le loro sopracciglia erano come posticce e, indipendentemente dal movimento dei passi, si muovevano in su e in giù. Nel notare questo, K si fermò, di conseguenza si fermarono anche gli altri. Erano sul margine di una piazza spoglia, deserta, ornata da aiuole. «Perché hanno mandato proprio loro?» esclamò, più che non chiese. Quelli parvero incapaci di una risposta. Rimasero ad aspettare con il braccio libero penzolante, come infermieri quando il malato vuol riposare. «Io non continuo», disse K per provare. Gli uomini non ebbero bisogno di rispondere. Bastò che non allentassero la presa e cercassero di smuovere K sollevandolo, ma K resistette. «Non avrò più bisogno di molta forza, la userò tutta adesso», pensò. Gli vennero in mente le mosche che si strappano le zampine cercando di togliersi via dal vischio. «I signori troveranno un osso duro». Thank you. Davanti a loro, da una viuzza più bassa, la signorina Bürstner saliva verso la piazza lungo una piccola rampa. Non era proprio certo che fosse lei, ma la somiglianza era grande. Del resto a K non importava neppure che fosse con sicurezza la signorina Bürstner. Quello cui subito pensò fu l'inutilità della sua resistenza. Non c'era niente di eroico se resisteva, se adesso creava difficoltà agli uomini, se adesso in quella ripulsa cercava di godere ancora l'ultimo barlume della vita. Si mise in movimento e un poco della gioia che con questo procurò a quegli uomini passò in lui. Adesso permisero che fosse lui a scegliere la direzione. E lui la scelse secondo il cammino che la signorina aveva preso davanti a loro, non perché voleva raggiungerla, non perché voleva vederla il più possibile, ma solo per non dimenticare l'ammonimento che rappresentava per lui. «L'unica cosa che adesso posso fare», si disse, e l'accordo tra i suoi passi e i passi degli altri due confermò i suoi pensieri. «L'unica cosa che adesso posso fare è di conservare sino alla fine la capacità di distinguere con calma. Ho voluto sempre fare 20 cose alla volta, e neppure per uno scopo apprezzabile. Non era giusto. Dovrò adesso far vedere che neppure quest'anno di processo mi poteva ammaestrare. Dovrò andarmene come un uomo tardo di cervello. Dovrò farmi ripetere che in principio volevo finire il mio processo e che adesso, alla fine, voglio cominciarlo di nuovo. Non voglio che si dica così. Sono grato che per fare questa strada mi abbiano assegnato questi due uomini quasi muti, privi di intelligenza, e che mi sia stato consentito di dirmi da solo il necessario». La signorina nel frattempo era entrata in una viuzza laterale, ma K ormai poteva fare a meno di lei e si abbandonò ai suoi accompagnatori. Di piena intesa i tre attraversarono un ponte col chiaro di luna. Gli uomini ora assecondavano docili ogni piccolo movimento fatto da K. Quando questi si voltò un poco verso il parapetto, anche loro si girarono in un fronte unico. L'acqua, fulgente e tremula nella luce della luna, si spartiva contro un'isoletta sulla quale si addensavano, come schiacciate, masse di fronde d'alberi e cespugli. Sotto di esse, invisibili in quel momento, correvano sentieri inghiaiati con comode panchine, sulle quali K qualche estate si era sdraiato e disteso. «Non è che volessi fermarmi», disse ai suoi accompagnatori, vergognandosi della loro premura. Dietro le spalle di K uno parve fare all'altro un leggero rimprovero per quella fermata che si poteva interpretare male. Poi continuarono. Percorsero alcune viuzze in salita, ove qua e là erano poliziotti fermi o in movimento. Ora lontani, ora vicinissimi. Uno con folti baffi, la mano sull'elsa della sciabola, si avvicinò quasi con intenzione al gruppo un po' sospetto. Gli uomini si arrestarono. Il poliziotto stava per aprire bocca, ma K con energia tirò avanti. Più volte girò la testa con precauzione per vedere se il poliziotto li seguiva, ma appena un angolo di strada li ebbe separati dal poliziotto, K cominciò a correre e i due uomini, sebbene respirassero a fatica, dovettero correre anche loro. Thank you. Così arrivarono in breve fuori della città, che da quella parte quasi insensibilmente finiva nei campi. Una piccola cava di pietra abbandonata e inselvatichita si apriva vicino a una casa di aspetto ancora cittadino. Gli uomini si fermarono lì, vuoi perché il posto fosse stato la loro meta fin dal principio, vuoi perché fossero troppo stanchi per camminare ancora. Ora liberarono K, che aspettava in silenzio. Si tolsero i cilindri e con i fazzoletti si asciugarono il sudore della fronte, mentre giravano lo sguardo per la cava. Dappertutto chiaro di luna, con quella quiete, quella naturalezza che non è data a nessun'altra luce. Dopo uno scambio di cortesie per stabilire chi doveva eseguire i compiti successivi, gli uomini sembravano aver ricevuto l'incarico in comune, uno si avvicinò a K e gli tolse la giacca, il panciotto e infine la camicia. K rabbrividì senza volere. Per rassicurarlo, l'uomo gli diede un leggero colpo sulle spalle. Poi questi riunì con cura gli indumenti, come cose che sarebbero servite ancora, anche se non proprio subito. Per non far rimanere K immobile nell'aria notturna, pur sempre fresca, lo prese sotto braccio e camminò un poco avanti e indietro, mentre l'altro cercava nella cava un posto adatto. Quando l'ebbe trovato, fece un cenno e l'altro uomo vi accompagnò K. Sul posto vicino alla parete era un masso staccato. Gli uomini deposero K a terra, lo appoggiarono al masso e gli fecero posare sopra il capo. Nonostante ogni sforzo e nonostante la buona volontà che K dimostrò verso di loro, la sua posizione restò molto forzata e inverosimile. Un uomo pregò allora l'altro di affidare a lui solo per un poco il compito di stendere K. Ma neppure con questi le cose andarono meglio. Alla fine lasciarono K in una posizione che non era neppure la migliore tra quante ne avevano trovate. Poi un uomo aprì la sua finanziera e sfilò da un fodero, appeso a una cintura tesa sul panciotto, un lungo, sottile coltello da macellaio a doppio taglio. Lo tenne sollevato e ne esaminò il filo alla luce. Ricominciarono le disgustose cortesie. Uno passò il coltello all'altro al di sopra di K. L'altro glielo restituì sempre al di sopra di K. In quel momento K si rese perfettamente conto che sarebbe stato suo dovere afferrare il coltello mentre gli oscillava sopra da mano a mano e di infilarselo in corpo. Ma non lo fece. Girò invece il collo ancora libero e si guardò intorno. Non poteva dare buona prova di sé fino in fondo. Sollevare le autorità da ogni fatica, la responsabilità di quest'ultimo errore andava a colui che gli aveva negato il resto della forza occorrente. Il suo sguardo si arrestò sull'ultimo piano della casa attigua alla cava. Come una luce che guizza si spalancarono le imposte di una finestra. Una figura debole, sottile per la distanza e per l'altezza, si sporse d'impeto tutta fuori, tese le braccia ancora più in fuori. Chi era? Un amico? Un'anima buona? Uno che partecipava? Uno che voleva aiutare? Era uno solo? Erano tutti? C'era ancora un aiuto? C'erano obiezioni che erano state dimenticate? Certo che c'erano. La logica è sì incrollabile, ma non resiste a un uomo che vuole vivere. Dov'era il giudice? Dov'era l'alto tribunale? Debbo parlare. Alzo le mani. Alzò le mani e allargò tutte le dita. Ma intorno alla gola di K si posarono le mani di uno degli uomini, mentre l'altro gli immergeva il coltello fino al cuore e lo girava due volte. Con gli occhi che si spegnevano, K vide ancora gli uomini che vicino al suo viso, guancia a guancia, osservavano l'esito. Come un cane, disse. Era come se la vergogna dovesse sopravvivergli. Thank you. Io mi chiamo Gianni Celati e sono stato qui invitato per dire qualcosa anche sulla conclusione di questo grande romanzo europeo che è Il processo di Kafka. Questo libro che non è mai stato concluso, che è rimasto tra le carte dell'autore e che l'autore voleva bruciato alla fine della sua vita, in punto di morte, ha dato l'ordine di bruciarlo, è un libro che ha però un capitolo conclusivo, intitolato precisamente La fine, ed è un capitolo, il capitolo decimo, dopo tutte le peregrinazioni del protagonista Josef K. per capire qual è l'accusa, per capire come può ribattere all'accusa del tribunale, in cui pare che il protagonista aspetti soltanto l'esecuzione della condanna. Quello che appare alla fine sono due specie di burattini, due uomini che hanno proprio i comportamenti burattineschi e sono come vestiti uguali, fanno tutti due gli stessi gesti, che vengono, che lo prendono per le braccia, che lo accompagnano attraverso la città, lo portano in una cava e gli piantano un coltello nel cuore. Questa fine è sorprendente, anche perché per tutto il tragitto del romanzo le operazioni, gli incontri, tutte le accuse, tutti i sospetti, tutto si mantiene nell'ambito dell'ambiguità, fuorché in quest'ultima fine, in quest'ultima conclusione, dove appare questo coltello da macellaio, precisamente. E quest'ultima frase... Con gli occhi prossimi a spegnersi, K fece in tempo a vedere i signori che vicino al suo viso, guancia contro guancia, osservavano l'esito, cioè dopo avergli dato il colpo di pugnale. Come un cane, disse Josef K, e gli parve che la vergogna gli dovesse sopravvivere. La vergogna. È come se tutto il processo... alla fine si concentrasse su questa nozione di vergogna. Certo, l'uomo, solo l'uomo può avere vergogna, perché la vergogna è il culmine della vita dell'animale simbolico. L'animale simbolico, che se è vestito è un tipo d'animale, se è nudo è un altro tipo d'animale. E quindi una specie di diagnosi dell'uomo come animale simbolico culmina in quella che è forse il movimento più immediato, più riconoscibile a partire dai bambini fino ai grandi, la vergogna. Ma nello stesso tempo quest'ultimo movimento del romanzo ci fa anche pensare che questo processo in cui è incastrato l'uomo, cioè dire di navigare attraverso i suoi simboli ed essere condannato ad essere un animale simbolico, terrorizzato dai simboli o attratto dai simboli, alla fine si congiunge con qualcos'altro, che è l'idea di uno stato d'eccezione, uno stato politico che non è quello che noi immaginiamo, dove ci sono, dove esiste una giustizia che funziona, dove esistono dei giudici che sono pronti ad amministrare una giustizia visibile, concreta. In questo romanzo non si capisce neanche più cosa possa essere la giustizia, ma si capisce qualcosa, che in Kafka emerge un'idea di Stato, un'idea di condizione politica, un'idea di vita che non è più certamente, non ha più niente a che fare con questa visione idealizzata dell'americanismo o delle società anglosassoni, è qualcos'altro, è qualcosa probabilmente più vicino a quello a cui siamo adesso, cioè quando parliamo di democrazia. C'è qualcosa nello Stato che è in qualche modo contro l'uomo. E quest'ultimo soglia, quest'ultimo sogno terribile con cui si conclude il processo è anche un sogno allo stesso tempo un po' strambo. Questi due aguzzini, questi due boia che sono un po' comici, mentre tirano fuori, piantano platealmente il coltello nel cuore di Josef K. E alla fine tutto il problema è quello della vergogna. Certo che si potrebbe anche dire in conclusione che c'è qualcosa di fondamentale in questa nozione di vergogna. Quando l'uomo smetterà di vergognarsi di qualcosa, certamente sarà il momento in cui dovremmo pensare che La nostra umanità non si distacca più quasi per nulla da quello degli altri animali, o l'illusione che ci sta che noi siamo diversi dagli altri animali ormai è caduta del tutto. Grazie. Roberto Pedicini ha letto Il processo di Franz Kafka, edizioni Adelphi, traduzione di Giorgio Zampa, postfazione di Gianni Celati, riduzione di Grazia Basile, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.